a casa sbronzo quasi tutte le sere, quel silenzio tra noi due che sembra non finire, quando lo svesto lo rivesto e poi lo metto a letto, e quelle lettere che scrive e poi non sa spedirmi, forse lasciarlo sulle scale è un modo di salvarmi. E tu che hai preso in mano il filo del mio treno di legno, che per essere più grande avevo dato impegno, e ti ho baciato sul sorriso per non farti male, e ti ho sparato sulla bocca invece di baciarti, perché non fosse troppo lungo il tempo di lasciarti. Forse non lo sai, ma pure questo è amore. Forse non lo sai, ma pure questo è amore. Forse non lo sai, ma pure questo è amore. Forse non lo sai, ma pure questo è amore. Forse non lo sai, ma pure questo è amore. E l'alba sul Danubio a Marco parve fosforo e miele. Una ragazza bionda forse gli voleva dire che l'uomo è grande, l'uomo è vivo, l'uomo non è guerra. Ma i generali gli rispondono che l'uomo è vino, combatte bene e muore meglio solo quando è pieno. E il primo disse sì, non vuoi comprare il nostro giornale, gli altri lo teniamo fermo tanto per parlare. Ed io pensavo, ora gli dico, sono anch'io fascista, ma ad ogni pugno che arrivava dritto sulla testa, la mia paura non bastava a farmi dire basta. Forse non lo sai, ma pure questo è amore. Forse non lo sai, ma pure questo è amore. Forse non lo sai, ma pure questo è amore. Forse non lo sai, ma pure questo è amore. Forse non lo sai, ma pure questo è amore. Forse non lo sai, ma pure questo è amore. Forse non lo sai, ma pure questo è amore. Ed il più grande conquistò nazione dopo nazione, quando fu di fronte al mare si sentì un coglione, perché più in là non si poteva conquistare niente. E tanta strada per vedere un sole disperato, è sempre uguale, sempre come quando era partito. Bello eroe con gli occhi azzurri dritto sopra la nave, ha più ferite che battaglie e lui ce l'ha la chiave, a croce fissi il falci in pugno e bla bla bla fratelli. Ed io ti ho sollevata figlia per vederlo meglio, io che non parto e sto a guardarti e che rimango sveglio. Forse non lo sai, ma pure questo è amore. Forse non lo sai, ma pure questo è amore. Forse non lo sai, ma pure questo è amore. Forse non lo sai, ma pure questo è amore. Forse non lo sai, ma pure questo è amore.